483. Sarde ripiene. Per questo piatto ci vogliono sarde delle più grosse. Prendetene da 20 a 24, che tante bastano per la quantità del ripieno qui sotto descritto. Le sarde, lavatele, toglietele loro la testa e con le dita separatele dalla parte del buzzo per estrarne la spina. Formate un composto con midolla di pane, grammi 30, acciughe salate numero 3, un rosso d'uovo, mezzo spicchio d'aglio, un pizzico di regamo. La midolla di pane inzuppatela nel latte e poi strizzatela, le acciughe inettatele dalle scaglie e dalla spina e poi tritate e mescolate ogni cosa insieme, servendovi per ultimo della lama di un coltello per ridurre il composto ben fine. Spalmate con esso le sarde e richiudetele, indi tuffatele ad una nella chiara d'uovo rimasta, dopo averla sbattuta. Avvolgetele nel pan grattato, friggetele nell'olio, salatele alquanto e servitele con spicchi di limone. 484. Broccioli fritti. Se vi trovate sulla montagna pistoiese in cerca di clima fresco, di aria pura e di paesaggi incantevoli, chiedete i broccioli, un pesce d'acqua dolce dalla forma del ghiozzo di mare e di sapore delicato quanto ed anche più della trota. Una signora di mia conoscenza, dopo una lunga passeggiata per quelle montagne, trovava tanto buone le polpette del prete di Pian Sinatico che le divorava.